piattina dice che ha un anello d'oro puro. Non è vero, la piattina ha soltanto il dorso duro. Ah ah ah, oh oh oh. Ha soltanto il dorso duro. Ah ah ah, oh oh oh. Ha soltanto il dorso duro. La piattina dice che ha i sandali.